c'è nessuno. Ora canale 10, c'è qualcuno? Perché qualcuno a voi? Tu qualcuno ti chiami? Non mi chiamo qualcuno, ma stai cercando qualcuno? Stavo cercando quello squalo che sta sempre lottando. Ma te lo sai che molte volte lo squalo muccica. Adesso stavo guardando su TikTok una tromba marina placcamore. Cos'è? Stavo guardando TikTok adesso e c'era scritto, c'era la fotografia, una tromba marina placcamore. Una foca? Tromba marina. Ah, chi ce l'abbiamo visto a luna, abbiamo visto l'aria nera nera e poi si è vista questa cosa, una piccola tromba era. Una trombettina. Si è vista una specie di tromba, ma piccola però. Sì. E da pace che c'è da voi ammullato. È sceso a Platamora lì al mare. Infatti si vedeva dal mare, si vedeva. Io ero alla scuola di mia nipote. Avevo l'aria nera nera, gli toccava. Chi si abbatteva che non si offendeva. E poi si è visto questa striscia, si è vista. E gli toccava, gli dicevo, se gli ha fatto cosa. Mi ha detto, sì. No, me lo sei detto, e io ho detto su Facebook, c'è anche la fotografia su Facebook. Hanno fatto la foto. Ma molta gente l'ha vista molta gente, c'era scritto così, che molte persone l'hanno vista, io no, la verità, però mi stavo prendendo lo schifo di scendere a Platamona a vedere, ma lui ha detto non si sa mai chi va di a Roma e sopra di tutto. Infatti, invece fuggi, non si sa mai. Ma com'è la società a Porto d'Orra? No, basta che scarichi in mare, non succede nulla, ma quando arrivo in città se ne bagna tutto, tu mi sono ghiacciato, ma si bagna, tetti, tutto da, caso che tirate, si mangia i tetti interi. Sì, a te credo, è meglio che tu sei arrivato in mare, che si sia allontanata e se ne sia andata. Quelle che succedono in America, nella zona dei logisti e roba del genere, è quelle lì che fanno vedere, scoperchiano le case addirittura, vola tutto, tutto quello che trova la fa volare, sedie dei bar, tavolini, tutto tanto. Ah, la casa bianca ti dovevi già buttare tutto, dai che sei imbecilli. Non hai inteso cosa ti ha detto agli europei? Già questo qui è... L'America dovrebbe essere nostra alleata, invece adesso ci stanno mattando. Un consigliere che ha messo il coso, il giornalista ha sbagliato, ha messo le cose su... Ah, noi è già pigliato, ma fa imbecilli già pigliato. Vabbè, questo presidente nuovo che hanno eletto è un po' gubù, mi pare di chi si risuse, di chi si rompe il ballo. Ma non lui, no, il suo che c'è vicino a lui, il vice, facciamo. Ma la mentalità è quella, è sempre quella, loro devono comandare e strafare su tutto, ma gli americani sono sempre stati così, devono essere sempre superiori a tutto. E poi ci sono macchi, e sono anche stronzi, facciamo. A me non mi sono mai piaciuti, ecco cosa è. No, sono quelli che provocano le guerre e tutte queste cose qua, perché sono rissosi. E tu sei interessante a farla finire la guerra, ma poco mi credo. Lui, chissà cosa c'è di sotto, ci sarà qualche cosa da guadagnarci di sotto, capito? È sempre così, magari se fanno finire la guerra il mercato cambia, eccetera, eccetera. Ho sentito che si vuole prendere la Groenlandia, si vuole prendere. Chi? Questo presidente imbecille di Trump. ma siamo proprio su un filo, su un filo per succedere la guerra mondiale, siamo proprio su un filo, chissà se si riesce a ritornare alla normalità, ma non ci credo molto. Ma speriamo che ritorni tutta la normalità, ma che se no comunque si non veda da migliorare, no? Se ogni nazione avesse pensato a se stessa, guarda, fornire le armi agli altri, e cazzo, qua c'è la gente che ha pensioni da fame, invece di dare alle persone che ci sono qua la roba da mangiare in più, qualche soldo in più nella pensione, gli stipendi, tutte queste cose qua, invece che dare i soldi per comprare le bombe per ammazzarsi, ma fida. Ho sentito Renzi agli altri della sinistra che non vogliono più mandare soldi per armi e dare soldi a chi ne ha bisogno qua, no di mandare armi, torna a cosa. E poi ti fai anche nemica alla Russia, perché la Russia dice cavolo, sono loro che ricevono le armi per bombardare a lui, e quindi la Russia diventa nemica nostra, capito? Perché noi li stiamo aiutando a bombardarli. Purtroppo l'Europa è con l'Ucraina, quindi devono essere così, però la sinistra gli ha detto che non vogliono più mandare altre armi, perché se no continueremo a fare sempre di cose. Non è l'Europa con l'Ucraina, è Giorgia Meloni, perché è fascista come loro. Ecco perché sta aiutando l'Ucraina, perché è tutta una questione di colore di partito. Loro sono fascisti, sono di destra quelli dell'Ucraina. E lei è di destra rubatessi. Ma speriamo che cambiano, che si finisca tutto, che verrescano, tanto la Russia ormai si prende una bella parte che ha occupato, si prende all'infuori delle centrali, cioè le centrali non gliele dà. Ma cosa simile, tutta la base bombardata, da ricostruire tutta quella, hanno bombardato tutto. E sta continuando a bombardare. Il presidente russo vuole togliere le sanzioni. L'Europa gli ha risposto, se tu vai via da non bombardare nel nulla più, se cessare questa guerra, allora noi toglieremo le sanzioni. Ma poco vi credo però. Vedi, è tutta una questione di picche, di cose. Ma che non se ne state tranquilli, si vivono questa vita che ce n'è una solo, tranquilli, invece che stare sempre a bisticciare, a fare, a bombardare, ma sa niente. Ho detto che l'Ucraina l'ha mandato due missili, l'ha mandato. Ha preso la raffineria, ha preso e l'altro è caduto, è nata una gazzetta di soldati, è caduta. Non siamo messi bene con questa gentaglia. E cosa vuoi fare? Tu dici che ce ne dobbiamo andare prima? Sì, ma io dico, la vita è una, perché non te la vivi in tranquillità? Perché sprecare così la vita? Lasci sempre arrabbiato, sempre mamma mia. E dirlo a loro, vogliono sempre guerre, non gli basta quello che c'hanno, ma ne vogliono di più. Vogliono conquistare il territorio, capito? Sì, le terre amare, la Ciamaddi. Oh, guarda che per il canale 5 è mare, mi raccomando, scrivi baracchino. Cosa c'hai? Buonasera. Cosa c'hai di rotto? Non c'ho niente di rotto, mi sto entrando dentro a canale 5, ti vedo dentro la televisione. Buonasera a tutti. Ah! Ciao. Ciao. Sì, e ma che è Giorgia? Tanto cazzo da Maria De Filippo lo vai. Ma vero? Sarà tutto uomini e donne. E allora? E questo? Infatti, così. Mi viene sempre da Maria De Filippo. Ma se mi raglia vado, tanto quanto, ma non mi dà nulla. Non è così. E tu la pensi bene, ma io no. Speranza di nuovi costi. Cosa vuoi fare? Un danno delle entrate fiscali. Poi è così. Sì. Avanti già. Tu sei Candondorri, da Maria De Filippi, tua moglie è da città con un mattarello. Ehi, andiamo via, andiamo. E allora, Manuè, cosa mi racconti di bello? Ho finito adesso, fa un po' mezz'aria, un pochettino, che alle 10 dovrò essere a lavoro. È finita adesso di lavorare? No, magari, devo andare alle 10. C'è notturno, sarò? Sì, la notte, e domani pure. Poi, ma di notte il traffico, ce n'è di gente, ne entra. E dove? Lì non lavorano di notte, no? È solo per controllare l'impianto. Ma cazzo lavora? Io non sono lavora, no? Gli operai mi cazzo lavorano di notte. Ah, tu stai solo per controllare che non entri nessuno, va? E beh, lì ci sono i mesi scavatori, rame, di tutto, cioè pannelli solari. Che appagato. Vabbè. Ho visto che stavi prendendo una macchina, ma di galera tu? Ma di mia nipote, 60.000 chilometri, quasi nulla, cazzo, quasi niente di chilometri. E perché non te la prendi tu? Adesso già andava di selvaggio, se sarà dura, cazzo già andava. Vabbè, se va bene allora. C'è pochi chilometri, è un peccato, come va la sala? Perché il lavoro che c'ha prende poco, oppure pagare l'affitto non riesce a assicurazione, bollo, non ce la fa. E quindi la perde. Lo so, adesso purtroppo mantenere una macchina è come ti avevo figlio. Fate così. Mantenere una macchina è un lusso. Un lusso sì, quando cominci la mia paghi giù 200 euro di moto. L'assicurazione, gli fai tagliarli, casa e la revisione, guido, grillato, sono sempre pinte. Ma così è. Ma sai, non hai sentito che adesso devi avere il bollo appresso? Perché se ti fermo non so quanto c'è di multa. Ti chiedono il bollo adesso. Io ce l'ho sempre appresso il bollo, io lo metto sempre nel libretto quando lo faccio, capito? Ci metto il bollo e l'assicurazione in mezzo al libretto. Ma io il bollo non l'ho mai pagato. Cazzo, ma ti impari la macchina mia, cazzo pago lo bollo. Ma io che sei scendere il capo. Il bollo lo devi pagare, adesso ti arrivano tutti insieme, già ti chiede tanto all'ufficio delle entrate, perché se la macchina tua risulta che tu sei fatto il passaggio, l'ufficio delle entrate poi ti manda la cartella con tutti i bolli da pagare. Devi mandare in rottamazione dopo 5 anni. Ma se sei con cazzo la grande pedaggio la parte che non ha mai pagato pure. Perché se... Avanti. Buonasera, buonasera a tutti. Faccia le cose, siamo mancato. A tu. Ciao a tu. Ciao. Ora il banco, 120 in banco. Di bollo, di bollo. All'anno. Vabbè, tu già ce li hai, se te li puoi pagare. Ma comunque se o no già. Per la moto pago 20 euro. La moto come è? La moto ne pago 50 e... ma l'assicurazione che ha un bug è tu della moto. L'anno pago 220. Che cattara? Paghi più di me che ho la macchina di assicurazione. Io ne pago 180, non ci arrivo a 200. La macchina pago 200 qualcosa. Nella macchina. Perché la moto, siccome le rubano con le moto, i motorini le rubano e quindi ci fanno pagare un bel di assicurazione. Per quello avanti torno. È vero cosa devo dire, che per la macchina di volo ne pago 2,52. E mago, certo. Non mi detto poco. Ma tu c'hai la macchina da signore, cazzo, boh, io non credo che paghi di più. Cioè, tu ce l'hai solo, puoi pagarlo. Quanto hai di sacro? Laura, diventa troppo spesso una trappola sociale. Io vi raggio di no, no. Santo vostro. Beh, cazzo, ti prendo una bella pensione, è 3.500, cazzo, a voglia. Ma che non ti taglia nessuno, me. c'ho una macchina modesta, piccola, cioè, 1.200, non è niente di che. Beh, interessante, forse lo travaglio su io. L'importante è che ti porta a lavorare. Capo. E poi lui questa macchinetta buzzinosa, piccolina, ma cammina, la mia. Piccolina, ma si fa sentire. Quanto faccio? Sto qua? Aumenta. Poi ho detto 40, la giudicata non la voglia. Ma io vado a via 170. Vai piano, macchina vai piano. Guarda che ci vuole un attimo a ritirarti la patente. E chi manco un gioco? Ma via un po' attesa, ma via, sappiamo esattamente un dirani. Vabbè, ma basta un attimo che succede qualche cosa. Un attimo. No, quando tiro così assai, anche se sono solo, non sono in compagnia. No, ma anche quando sei da solo, non dico che sei in compagnia o da solo, o da solo in compagnia, devi andare piano. Vabbè, la mia media è 120, così qualche punto 100, però ho voluto tirarla al massimo, a vedere quanto andava. È una... il motore si tira... Io l'ho appunto, l'ho avuta, però ho avuto 16 valvole e se camminava di brutto camminava e consumava poco. Beh, 16 valvole è una cosa, non è come l'8 valvole, è normale, però già si difende, già... Molto valvole normale da si difende lo stesso, non consuma tanto e viaggia. E quando dici già ciuccia curvetta, puziosa. La mia non si chiama, devi dimenticare di pure in benzina, almeno è camminato io in macchina. Prima quando ero ragazzo camminavo, adesso ho messo il testo, non cammino più come prima. Avanti, ma lo è. Questa pizza della salsiccia, attore, riprima. Io sono andato a mangiare, se devi ritirare. Purtroppo è così. Io faccio una macchina che cammina più di che San Antonio. È un 1.600 e tira. E cos'è? Un cascai, 1.600. Ci sarà una cosa. E cammina un bel cammina solo che a me a tirarla un bel come facevo prima non manda più a che so che Janenburg pure l'autovelo che sono in Chibi non è l'autovelo, c'è il cartello dell'autovelo, potrebbe esserci, capito? Lo so, potrebbe esserci. Come l'ho trovato io un giorno. Andando in Olbia, aeroporto. E per fortuna che mi sono avvisato e ha già rallentato. Lo so, ma te devo avere un pro e contro, ti devi dire a una certa velocità, non di, cioè in certi punti non di sotto per 90. Perché se no se sei troppo sotto potresti essere multato. Se sei troppo sotto, dove si cammina a 90? Deve dire intorno agli 85, così. Allora va bene. Ricordate che loro ti trovino inferiore ai 90. Quindi devi deve andare per forza così, ma stai a bere con calma e a arrivi. 5 km in più sono consentiti, quindi no, non devi negare tardi a te. Se ti trovano 95 non ti possono fare il verbale. Ma 95 non te lo fanno. Ma si traccia a fare assento così. Allora tu, io ho letto un articolo che dice che praticamente se prendi la multa con l'autovelox puoi farmi causa, perché non sono omologate le macchinette che usano e in più devono avere un documento appresso, come loro ogni 6 mesi rifanno la taratura, e non devono essere loro a farla, la devono mandare da tecnici specializzati. Lo so. Per cui se tu hai dei dubbi puoi chiedere il foglio come loro hanno fatto la taratura della macchina, se non è taratta non ripaghi la multa. Io so invece anche di un'altra cosa, che pochi sanno, tu se ti prende la contravvenzione si fa di là. Se vai di là, ti paghi le contravvenzioni e non li porti la patente. Perché la patente loro, se non gliela porti tu, non ti possono togliere i punti, hai ragione. Non ti possono togliere, a me me li hanno tutti. A me mi hanno tolto 3 punti, a Budi Budi. E io non li ho portato sulla patente. Mi hanno detto, le leveremo 3 punti della patente e in più sono 180 euro di multa. Perché stavo andando a 70, nel limite di 50. Stavo andando 20 in più, ma non stavo camminando, grazie. Una cosa è andare in zetta, una cosa è andare 20 km in più. Ma te l'hanno contattato al momento? Sì, mi hanno fermato. Sono due cose diverse. Un conto se ti fermano dal contattato al momento. Un conto se arriva a casa e non ti hanno fermato. Lì è diverso, lì non te li possono togliere i punti. Lo sai, perché non ti ricordi chi l'ha guidata la tua macchina. Informa di me. Loro automaticamente di qui c'è un tipo di cavare il monte. Però devi pagare di contravvenzione, devi pagare. Capito? C'è il pro e il contro. E belle salate pure. Ma mio socio non l'aveva fatta sulla Budi Budi e si vedeva nitido, rigido nella fotografia, proprio bene bene chi era che guidava. Su questo ti devo andare contro, perché quella di mio suocero l'ho vista io e si vedeva lui proprio mentre guidava e stava andando, mi pare che a 10 km in più di quello che poi andava piano piano, mio suocero bloccava tutta la catarabina che era la Budi Budi andando al mare. Una volta stavo andando a lavorare, che se c'era la fila lunga, sorpasso con la moto. Se sono arrivato in punta era mio suocero che andava bloccando tutto il traffico. No, adesso non te la possono più scattare la fotografia, è un reato, capito? Non è più vaghi su questi intendi tu. Prima sì, molti anni fa, ma adesso non la possono più fare. Comunque con quella pistola a 150 metri, Tore, ti possono beccare. A 150 metri mi hanno beccato con la pistola. Perché io ho rallentato quando li ho visti, ma mi hanno beccato lo stesso, perché con la pistola ti beccano a 150 metri di distanza. Addirittura uno mi ha sorpassato, l'hanno fermato prima di me, ma ha sorpassato, cazzo, sarebbe intrigato. Cioè, ma tu mi sei dicendo che vabbè. Adesso no, non te la presentano più con la fotografia. Ma te la presentano senza fotografia, te la presentano la multa. Vabbè, io me lo ricordo perché a mio socio gliel'avevo pagata io. Perché era un periodo che aveva speso e gliel'ho pagata io la multa. La fotografia l'ho vista bene. Vabbè, però era anni fa, non ti parlo di adesso, ti parlo di un po' di anni fa. E comunque chi va piano va sale, va lontano. Io ho questo coso qua, perché se tu trovi un ostacolo di colpo fai in tempo a fermarti, ma se stai correndo la macchina ti pattineggia e fai danno. E infatti così ti pattineggia e ti fuori un martesi, invece meglio andare a certa velocità e arrivi piano piano, sempre andando. Ecco tutto che ABS pure, capito? Però la macchina, se stai correndo, non ce l'ha fatta al massimo. Infatti, con l'ABS pure se a certa velocità non ce la fai a fermarti, no. Oh, va bene, se vuoi abbandonare il rodi pure, No, perché poi l'ABS va gradatamente, non è che frega di corpo, fa tru tru tru tru tru tru, non so se ce l'ha presente come, no. Però se stai correndo troppo, a una certa velocità ci vuole, è calcolato che ci vogliono tanti metri per fare una certa velocità, capito? Per fermarti a una certa velocità. Infatti è così. Ti saltano le ruote, andano a brizzi, a filmarsi. Sì, vabbè. Avanti, Andrew. Mica c'è Emanuele. Pensa che Emanuele ha mollato. Emanuele, ci sei ancora? Sì, siamo qua, che poi stiamo mettendo il telefono per andare a lavorare. Ma okay. Ciao, sono a punta del sedere. Guarda, c'ho questo periodo, ma cazzo, sembra una mamma, sai. Però posso immaginare quella vibe. Ma va bene, che cattaro te ne sei saltato. Ah, che non è un barba, sono liscio liscio. Mica ci sono, veramente l'offerta la Conad, sono 3-7 la mette, le paghi una cazzata. Ah, non c'ho neanche quelli da spendere, ho già. Ah, ma facevo prima passarsi la friscia. La sta cacciando rubbe. Tanti pesci decuppato che sono messi a chi. Se vuoi recuperare pesci va di sotto, eh. Ogni volta sono 60-70 euro, anche quando li mili 3 o 4. Sono belli, no? Conviene andare al mercato. Sono bestie, ascolta a me, le lumache in cazzo ce l'hanno tutti pappati. Ma non ci avevi messo il corridore? Sì, ne ho portato 4, il cazzo lo fa l'acquario pulito, vero? Te l'ho detto che se ne mangia, anche in buttia se ne mangia. Adesso i buttia, 2 buttia voglio mettere. Preparati 40 euro. Io le già le pagavo a Furi, dice che non le migliorare su cani. Cazzo, Furi erano in offerta 7 euro, 9 euro normali, 7 euro con offerta. Ed erano in offerta, se li volevo prendere 5 euro sempre li prendevo, ma poi tocca andare al tabacchino a fare cose, ma ogni volta cazzo è così, dopo se non è una persona sicura che li vuole di là. No, avevo detto lì a quella lì a... dove mi servo io a poco d'ora, se che me le porta a 7 euro ordinamene 4 più o meno. Ha detto che me le portavo, io gli ho detto di portarmele, che le prendevo pure lì. Se ne sono a 7 euro 4 me le prendo anch'io, perché va bene, ho già 4, ma quelli lì vivono in bracco, capito? Qua in teoria ne aveva solo uno di buttia, ma non l'ho preso perché era da solo, non ne aveva altri. E gli ho detto, quando ti arrivano gli altri, fa qua un paio di settimane, adesso quando sono di riposo mi faccio un giro e vediamo un po' se li sono arrivati. Che non li cura, capito? Non li cura. C'è l'acqua, cazzo, che non vuole vista. Già l'ho visto, è la giada lì. Hola, mi sentite? Ehi, Anto, ti sentiamo. Ma com'è la modulazione? Fa schifo. Scupa. Me l'ho detto. Scupa, tu. Io ti dico la verità. E così com'è? Prova a fare un passaggio lungo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. E insomma, un po' meglio, ma sempre cupa. Risulta come un effetto camera, come si separa dentro un bicchiere. Non si può fare. Dici un altro microfono. Io ne ho uno della Midland che c'ha l'eco, che c'ha tutto. Non lo uso mai. Qualche giorno lo attacco, anzi pure la rubus attacca, ma te lo senti. Oh, questa è più bella, va. Prendete, riprendi. sentivo in coso altra gente in qualche altro canale vicino. Quello esplode, non è preso. Ah, io devo essere in canale vicino, doveva essere sul 12, doveva essere. Ma chissà che sia così. Un attimo che sto mettendo la voce al microfono. Ah? Ho detto un attimo, sto mettendo la bottiglia nel microfono. Ehi, ehi. Vabbè, come sta? Oh, io mi sono ben giù, cioè, ben giù. Non so che fare cose. Il castello mi è bocca un po' sbagliato, la settimana fa. Purtroppo è così. Purtroppo ti tira giù, ti tira. Oh, piano piano devi andare avanti. Ecco cosa è. Il gioco che la persona se n'è andata e non c'è più e stai da solo. Ah, ci sono i figli che lo occupati della manutenzione, che gli fanno compagnia. Sì, però lui era abituato a avere sempre lì vicino, come fa, ma non è la casa aiuta, lo so cosa vuol dire, lo so, cosa arriva. Infatti gli ho detto anche io, bisogna andare avanti, e boh, siamo tanto solo di passaggio, no? Sì, siamo solo di passaggio, boh. Arriviamo a 80, 85, 90, e da voi, Dennandi, ecco cos'è, prima o poi ce la dovevo aspettare. Sì, 80, 85, ma che parli, però, cazzo, già pure le biglietti giovani, che in altri anni, ah, che gli si, giovani, che gli si gerbuni, niente gerbuni, ecco cosa è. Poi ce lo vogliono loro, ammazzarsi in incidente, ogni dei che d'altro. Ecco cosa è. No, non è questo l'incidente, è questione di che siamo morenti di infarto, non incidente, a parte anche l'incidente, sono morenti. Ma la maggior parte sono morendo di infarto, un infarto fulminante, non si interviene altro giorno di infarto. Purtroppo sì. Se gli fa cosa così sì. Cosa vi vuoi fare? Bisogna farci, gli ha dato i controlli alle arterie. Sì, il controllo mio, adesso ho fatto l'esame alla popolare. Mi ha prescritto di farmi le visite del sangue e gli urini. Adesso ho fatto le visite del sangue e gli urini lì a Via Tempio, l'ho fatto. Adesso quando mi dà il risultato lo devo portare dal mio dottore e poi vediamo che vada tutto bene. Quindi si è già pensato al controllo, bisogna tenersi. Io il controllo adesso ce l'ho a dicembre per il diabete e poi devo portare tutte le analisi, la visita oculistica e devo prenotarmi a giugno, mi devo prenotare da Barugudo, ecco dopo, devo prenotare. Non c'è Doppler, è quella cosa che bisogna fare. È quella ti controllano il collo, le arterie del collo. Quindi sono buone, non c'hai nulla e cose. Quelle lì. Quella non so se te le fa il tuo medico impegnativa. Ti stava per ordinare. Il dottore non fa impegnativa, non fa il dottore, sì. Adesso vediamo. No, infatti se devo dire, fammi fare anche la visita al cuore. L'ho già fatta, però la voglio rifare. Un attimo. Come sta andando? L'eco forte c'è. sai già. Ma due lì, ora 20. E lo regoliamo qua, c'è un triple five. Sì, sì, la centenni, la centenni. Però è un bel veloce. Antonio, come esco secondo te? Mi sa che Antonio ha Sarrado. Tommaso Sarrado, adesso con Buzzinente, sopra. Un po' per cavere il campo del buono. Dimmi come sta andando questo microfono. Posso anche abbassarlo di più, ma è amplificato, bene. A me piace molto. Questo qua è della Midland, è il microfono. Questo qui va bene per gli apparecchi Midland, ma va bene anche per il garage. Mi piace, mi piace. Mi piaci? Chiappa, io sono sempre con l'MB più 4. Che bagaglio. Vabbè ragazzi, io vi devo lasciare, che ne ho di pigliarmi del bacino. Ci risentiamo alle prossime, ok? Ciao Emanuele, ciao Gianni e ciao Antonio. Statemi bene. E fatemi una buona cena. Se dovete di va, se no pazienza, ok? Ciao a tutti. Ciao Tor, ci sentiamo, dai. Vai già. Ciao Tore, ciao, se non trovo il piatto rovesciato lo faccio anch'io, dai. Così mi dici, andare. Sei fatto da Monella, anche tu te lo trovi rovesciato. Vabbè, da Monella non ho fatto che sia più tranquillo. E allora ti mangi, dai. Avanti, Antu. Per scappa, sotto le torre, te la decidiamo. Finalmente mi sto bevendo una birra come si deve stasera. Perché sotto bevo quella alcolica. Finalmente una birra. Ma sai cosa ho comprato già? La Messina, ma non è bevuta, la mia è un po' buona. Sì, la birra Messina è siciliana. Sì, ma è buona proprio. È come lei che usa sarda più o meno, là. È la birra siciliana, la birra Messina. Sì, l'ho bevuta, ed è buona, sì, è vero. Ma una volta, mi sa che me l'ha offerta un amico siciliano che qua è sposato con l'amica mia, Sasa. E se non è a casa sua, se ne va portata dalla Sicilia, ma se la vedono anche qua, magari la prende. Ma io le uso una di birra che non ce n'è, però ti sconvolgo bene. Costa una lattina da 70 cl, costa su 99 centesimi, ma è una birra favolosa, non è di quelle non filtrate, non si buffa. Questa è veramente buona, veramente buona. La prima volta che l'ho assaggiata a Oristano, ed era 10 era. No, io non pensavo che la vedessero qua. Pensavo che la vedessero solo in Sicilia. Vabbè, tutti ascoltano adesso, perché l'hanno passato la mandano là, quindi visto che ci sia anche qualcuno della piscina, ma se la cerchi dei locali non la trovi. Perché ti mettono davanti sempre o l'Aine o la Tuborg, oppure ti mettono la Express, che c'è tre birre qua. Certo, comunque sta birra Messina è molto buona, io l'avevo bevuta la prima volta del 2 in busso, però non mi stanno. Quindi so che c'è anche qua, perché l'ho vista 100.000 volte, l'ho vista, e ti dico che è buona, cavolo. Dov'è che l'hai comprata? Alla Coppola, a San Dolso. Eh? Vabbè, la Coppola. Avanti Emanuele. Emanuele deve aver sarrato. Emanuele. Mi stavo per forse il rombo entra a Lucca. Vabbè, ma io devo andare a portare il cazzo. Non sai che sta il cazzo. Ti devo lasciare e magari ci sentiamo domani, dai. Volevo provare questo microfono ad ascoltarti con il cucchio a vedere come. A me piace. E questo qui l'avevo preso su internet, non è vero, è della Midland. Si chiama, esattamente si chiama F100. È buono. F100 ce l'avevo preso io e Mario Binario su internet. A me piace molto. Ma va meglio delle sarebbe nel più 4. Oh, figlio. No, va molto bene qua. Caspita, è ottimo. Cazzo, vabbè, mi ascolto, poi vediamo un po'. Quale preferisco? Secondo, se preferisco questo, lascio questo. Perché ogni tanto bisogna anche cambiare, va. Ma hai ragione, intanto una ciamba di rimutate a tu. Luca, com'è questo microfono? Ciao. Oh, ciao, bello, bello. Buganaguru, a tu. Buganaguru. Ho perso un gatto. Mi piace la polpa a voi, quello, non quello super raffinato, ma con la polpa di pomodoro, a me piace molto, faccio un po' di gnocchetti e mangiamo, vai ragazzi! Luca, sei canagurri. Ti piace, cosa ti piace del suo normale o la colpa? Questo qua. Quale? La radio quanto? Buona, buona. Ma via Gianni, che ti puttato, io ho sentito gli splatter. Oh, pure io ho sentito un po' di bimbe. Mica hai toccato qualche cosa già. Gianni, dove sei? Ha toccato qualche cosa. Farina. Scappa. Mi giuro la febbre, Gabriele. Guarda, mi giuro la febbre. Ok, bravo. Col termometro misurando la febbre. Cavolo, con l'intec, quello che c'ho bene, non l'intec, no. La 48, che te può guarda. Ah, lo splatterende in un banda laterale. Luca! Gianni, ti sei spostato? Ehi, mi sono spostato un attimo sul 15 perché stavo provando questo microfono. Mi piace. Anche aspetta, abbasso un po' l'eco, così va bene, vero? Via, va benissimo. Questo è il microfono della Midland che ci avevamo preso con Mario Bilario da internet. Li stavamo vendendo e ce lo siamo comprati tutti e due. A lui non gli andava tanto bene le sue apparate, invece a me mi vanno bene. Confermo, bello, bello, bella radio. Sì, è più chiara questa di quella delle BB5. Quella delle BB5 c'ha più spazio. Questa qua mi piace di più perché è la mia voce naturale. Sconferma, è vero. Cava, cava, cava, cava. Antonio, è andato, sempre. No, che gioco. Ti prendi, anche tu, dai, che io adesso vado a portare in stai, dai. La cappa. Ok. Via. Senza bere una birra, capo in briaghezza. Ma apposta, Giulio. E altro, come gli uganagudi la birra. No, ho bevuto la birra, cazzo, un bel buono. Però non esco, stasera io la macchina non la tocco. Io la macchina non la tocco, ma manco per idea. Non esci nulla. Stasera me l'ho bevuta per dimenticare, per passarmi il nervoso. L'effetto te lo fa per una settimana, tu ti posso toccare lo telefono. Cosa si dizende? Ma la birra bida. No, sto scherzando, quella è la droga. Cazzo, ma ci stai confondendo forte, non mi confondo io, non ti gioco io così. L'ho detto scherzando. Hai capito che... una volta quando hanno fatto quella rustica in Piazza Le Segni, che c'era anche tu, che vabbè, c'è quella storia là, quella volta lì e basta. Ma che cosa? Non ho capito già. Ah. Non ho capito, ripeti. Ho detto che l'ultima volta che ho mangiato lo zimino è Piazza Le Segni, quando c'eri anche tu, che arrostivano tutti i circoli di Sassari. Già, sullo zimino non sa cucinare bene, non sapevo cucinare. Se noi ci cingommo, lo so, io una volta l'ho mangiato da un amico, poi la cingomma non ha giù mangiato. Non ce la fa masticarlo. No, deve essere bello croccante. Ci vuole poco per lo zimino, non è così. Qui devi abbattere un poco con le pigne al mare, con le pigne degli alberi, perché non c'aveva legno. Non è servito a nulla. Un po' così, se no ma becco di culo. No, ma non è bianco, non è via, ma facevamo a sticcarlo, la cigoma presente c'era così, era così. Lo so, ci vuole un po' di fuoco, ci vuole, è vero. Allora, deve essere croccato, deve essere bello pastorito, se no non si viene via. Al ciso lo facevamo bene, c'aveva Vincenzo, aveva fatto la buonanima, aveva fatto la graticola bella a casa con una mezza tabulata e poi c'aveva due cric per sollevare la graticola, no? Aveva fatto due cric con un ferro che praticamente come ne muovevi uno si muoveva anche l'altro. E praticamente saliva la graticola senza, poi la si girava tutto quanto, senza toccarlo, la girava, c'era la doppia graticola, girava così senza toccarlo, capito? Ci aveva fatto un meccanismo e aveva molta iniziativa Vincenzo, era un po' rovinato, però le faceva le cose. Non so già, era una persona della moda, poi con quelle cose lì, alta tecnologia, ma lo sai che ne ha fatto una al circolo del comune, a quello che c'era di fronte, gliel'ha venduta a 700 euro per arrostire, no, gliene ha fatto una luna, 700 euro si ha fatto. Ma ve l'ha fatta bene? È grande, di quelle con l'altra mezza tabulana che c'aveva, che l'ha tagliata, le ha fatto la graticola all'uomo, capito? L'ha fatta grande e gliela ha sempre arrostita. Già lo so, ma dopo un po' di anni la tabulana si faccia. Se facciamo noi, anche dopo un po' di anni, sono truccato, sono tutto a dolore, adesso mi sto facendo, devo iniziare la fisioterapia, sono genista. Per carità, vabbè dai, ci sentiamo ragazzi, vi ha fatto piacere ascoltarvi, se mi avete promosso questo microfono lascio questo, se no lo metto nel Ruiz e vediamo un po' come va nel Ruiz, lo facciamo andare col Checco. Io direi che sia promosso. Va bene, dai. Allora usiamo per un po' questo qui, poi usiamo anche l'altro ogni tanto. Andà bene, Antu, ci sentiamo. Ma l'avevano bocciato, mi avevano detto che era meglio le bevi più qua, che aveva più bassi, non che era meglio, che aveva più bassi. Invece questo qui è la mia voce naturale. Ma io sono questo MV più 4, paura che sia il microfono. Ma cosa ne metto? Una spugnetta quando è originale? No, non gli ho messo niente. Io gli ho fatto solo il ponte e basta. No, non hai compreso. L'MV più 4, quando lo vedo originale, com'è? C'è una lamella, dietro. E vuole tolta? Cosa? Vuole tolta questa lamella. C'è chi la toglie, li mette l'ovatta o il cortone attorno per non sentirsi la radio male, li mettono l'ovatta o il cortone, perché quella lì, quella lamella lì, fa la voce metallica. Vabbè dai, ci sentiamo, ciao Luca, ciao Antonio, ciao tutti gli ascoltoni, a domani. Ciao, ci sentiamo, ciao Luca! Mi ha telefonato un amico, dice che io avevo problemi a un telefono. Praticamente dice, fa wifi, si connette, ma dopo non si connette. E quindi? Quindi, però non ho comunicato la manova. Cosa? Si connette. Chiama tu, Gabriel, chiama tutti, chiama. addio, aiuto. Capri, quando la gente non fa più stato cambiato. Capri, sta quando la TV. Quale macchina stai usando antes? Cosa? Che macchina stai usando? 87. Va bene. A dove? Mi hanno regalato un televisore, tanto 82 pollici. Si sentiva, ma si vedeva, ma l'ha già cunzato. Nuovo, eh. Ma vero. E cosa hai? Le barre LED. Cosa? Le barre LED. Ah. E vabbè, non da ciambaco, si giunge a ciambaco. Non da cunzato. E c'è solo su è tecnico, so. Scusami. Ma non lo so, come oggi mi ha giambato lo specchietto di una macchina. Tu come ha fatto di entrare? Quel muro come centrale? Un classico al muro. Non sai come ho dovuto farlo andare? Con una pinza a becchi ho dovuto stringerlo. Come ha fatto? La tipica te l'hanno dato. Però per la relazione è tutto un casino, Ah, Nico, facciamo un po' per avanti, troppo forte, facciamo un po'. Ma come hai fatto a recuperare lo specchietto? La TP si è andato, o ti hanno dato i soldi? Io la ti ho comparato perché non posso guidare senza il specchietto. Che mi mettono a contro... Ola, va bene così. Io ho comprato, che se no mi muove la contravvenzione, mi muove. No, te lo pagano loro. Troppo la relazione non lo pagheranno. Se l'hai pagato? 20 euro, 25 euro. Ma ci passa carota? Ma cosa? No. Ma dove? Lì, via 4 novembre? Là, l'amico mio. Giovanni. Ma lo conosci a Camorcione? Giovanni. Vabbè, cosa è? Lui è come... Ola, conoscendosi. Stefano è il padrone. Io avevo preso i quattro ammortizzatori della Matiz. E poi altri pezzi. Cosa ha fatto il magazzo? Vari tutti e quattro 180 euro o 200 e poi andare a finire la faccia a carrozze. Gesù, è crepato il motore, sai, che sa macchina. Sì, praticamente ne è salita la merma, si è mischiata l'olio con l'acqua, mi ha dato tutta canta dal serbatoio del liquido, sembrava cioccolato. Ma guarda, non ti sembra bruciata. Siamo rotto i guglioni, sono stato lì a perdere tempo, io ho stato giocato da gusti gomme nuove, ammortizzatori nuovi e ho fatto pure tutti i sedili, ma un casino. Il motore ci volevo, cioè volevo riparato. Ma può uccidere i fari, questo qua, non mi niente che vanno fare. Abbiamo fatto due auto radio. Cazzo, se vuoi aiutare la macchina se riesce a dare a parare un fumo. Ma è due cose che sono i marcetti. A chi deve la cosa intera, se mi sei rotto la macchina, se me la buttare, cosa ci potrò fare io? Se fa pure le lezioni mi fa, Ma di cosa va? Ma proprio poco, Non ho capito. Ha detto, poco da di nulla va, tu. Vabbè, devi dire un figliolo di Massimo. Cosa? Ma prima Marcello il figliolo, vabbè. Un muletto ti larga da lei. Sì, la troverete tutta dimontata. Lavorare tutta dimontata, lavorare. Mi già venduti si mette. Cazzo, ma in tanti anni che avevi la patente non si è mai comprato una macchina. Tanto, si è portato di canale della radio e tu balanchi. Ehi, taggio un riposo, sei tu che non mi ha riposo. Da solo si è sforzato il canale, boh, mi sono giocato l'onda, era a 9. Se tu vuoi il capo. Cosa ne intendi, Capri? Quindi non... Quando non lo so, l'ha pigliato. Oh, non mi sentivi di splatter. No, non è più da quei picchi tu malacchino, è un bombù, c'è i filtri inseriti. Ah, che buon prezzo. Vabbè. Ma lo stanno leggendo, sicuramente ci sta venduto tutto, sta venduto. Prova a parlare, a vedere, fa passaggio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oddio, quello più lungo. 1, 2, 3. La Peppina fa il caffè, hola, hola, hola. Mi senti? Era un po' da sento di sbatte, vabbè, su due canali, due, su due, tre canali, ma non di più. Vabbè, segnalare dove è. Vieni qua, capri! Mamma mia, che belle papudelle! Che cos'è la ministra? Mezzo pericoloso quello. Devo stare attento che contiene la pasta asciutta. Beh, esci che me la scolarla e mangiamo, va. Arrivi, ci sentiamo più tardi, sì, ok. Sì, sarà molto difficile. Comunque, tu, giovedì, venerdì, sabato, ho avuto le canne a culo.